aspettare la seta. Bisogna aspettare che arrivi fino al 16, la battuta 16, e dopo senti la mia voce. Sì, la chitarra la sento. Ma come mai il basso non si sente? Sente il basso. Fai, metterlo sul stai usando il mixer. Io ho messo praticamente la voce, la senti? No, io ho escluso il microfono del disantaba.